Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera, benvenuti a Mr. Kilowatt. Una delle applicazioni più promettenti del fotovoltaico riguarda le serre agricole. Laddove c'è una serra, infatti, c'è una struttura esistente alla quale si possono applicare i moduli. Basta pensare al fatto che il costo dei moduli rappresenta oggi circa un 30%, 40% del costo di un impianto fotovoltaico, per capire che le economie che si possono conseguire sono significative. Se poi consideriamo che con gli incentivi attuali, quelli che comunque cambieranno a breve, saranno certamente ridimensionati, un impianto da 200 kW, quindi relativamente piccolo, produce un reddito equivalente alla coltivazione di 200 ettari di grano, si capisce bene l'interesse anche degli agricoltori. Ma c'è anche un altro dato ovvio che bisogna considerare: le piante, i pannelli fotovoltaici competono per la stessa luce e quindi la convivenza dei due non è ovvia. Proprio questo è uno dei temi che verrà affrontato venerdì 25 a Latina nel corso del convegno fotovoltaico in agricoltura, dove si presenteranno anche alcune nuove tecnologie destinate appunto alle serre fotovoltaiche. Di queste che parleremo questa sera con Giovanni Minuto, che è direttore generale del CERSA, Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola della Camera di Commercio di Savona. Buonasera Minuto. Buonasera, buonasera. Allora, partiamo da questa questione della compatibilità. In effetti, come giustamente ha premesso lei, realizzare serre fotovoltaiche è dal punto di vista tecnologico abbastanza semplice. Realizzare serre fotovoltaiche a duplice attitudine, in grado quindi di produrre un reddito elettrico ma anche e soprattutto un reddito agricolo, è molto più difficile. Quindi questa compatibilità esiste purché vengano rispettati i limiti delle richieste di luce delle colture, quindi selezionare il tipo di tecnologia, il tipo di coltura da produrre al di sotto di questo tipo di impianto. Bisogna accoppiare la tecnologia fotovoltaica giusta con la coltivazione giusta, in pratica. È così, no? E invece vi arrivano anche, insomma, delle proposte, dei progetti un po' strampalati, se ho capito bene, vero? Sì, a noi capita di analizzare e valutare alcuni progetti di serre fotovoltaiche che ahimè sono da cestinare, in quanto prevedono una copertura superiore al 50% della superficie di tetto disponibile, e questo non corrisponde ad un taglio del 50% della radiazione luminosa, ma superiore, perché non ci troviamo all'equatore e certo, non siamo sempre alle ore 12 del giorno più lungo dell'anno. Addirittura lei mi diceva che, insomma, la stragrande maggioranza spesso di questi progetti sono strampalati, non il 3%. Insomma. No, direi anzi il 90% di questi progetti sono progetti che hanno un chiaro target, quello della speculazione elettrica in barba alla coltivazione agricola. Ecco, e questo non è un di cui, perché poi ci sono anche dei controlli quando uno accede a questo tipo di incentivi, e se uno non ha rispettato certe regole, poi comunque paga, sempre che i controlli vengano fatti. Ah, certamente, lei tenga conto che non solo si tolgono gli incentivi, ma successivamente arrivano anche dei controlli legati all'effettiva destinazione d'uso di queste serre, che non sono più a questo punto serre di coltivazione, ma sono qualcosa di diverso. Sono impianti fotovoltaici, sostanzialmente. Esatto. Ecco, esatto. Invece ci sono delle tecnologie che stanno arrivando, si sta cominciando a rispondere, no, a questa esigenza. Sì, in effetti stanno arrivando sul mercato dei prodotti interessanti. Uno, soprattutto in questo momento, è senz'altro un materiale a base di disseleniuro di rame, indio e gallio, il CIGS, che è distribuito all'interno di cilindri, un po' come se noi vedessimo dei tubi per l'illuminazione al neon. Sì, quindi dei tubi di vetro ricoperti di questo materiale fotovoltaico, e questi tubi disposti affiancati uno all'altro a una certa distanza hanno la duplice funzione di produrre energia ma lasciarsi attraversare dalla luce e anche, attenzione, dall'aria e dall'acqua. In questo modo è possibile non solo realizzare delle serre fotovoltaiche ma anche degli ombrai fotovoltaici o dei tunnel fotovoltaici, quindi con una notevole flessibilità d'uso. Di quanto fanno aumentare il rendimento di un metro quadro agricolo, insomma, questi sistemi? Chiaramente il rendimento dipende dal tipo di materiale e da quanto ne metto al di sopra della coltura. In linea di massima, prendiamo ad esempio la coltivazione del pomodoro, che ha un rendimento, una produttività intorno ai 20 euro a metro quadro, bene, con materiali di questo tipo si può quasi raddoppiare questa produttività, quindi arrivare anche ai 35-40 euro a metro quadro. Se invece prendiamo il basilico, che già è una coltura molto pregiata, da 48 euro a metro quadro si passa a 55-60 euro a metro quadro. D'accordo. Ecco, oltre però a questi tubi, diciamo, fotovoltaici, ci sono anche altre tecnologie, vero? Sì, esistono materiali che vengono filmati a sandwich all'interno di due lastre di vetro, possono essere utilizzate sempre a sandwich all'interno di un doppio strato di vetro e materiali plastici distribuite, disperse opportunamente all'interno del sandwich. Quindi spaziate fra loro questi quadrati che siamo abituati a vedere, sì, che sono le celle fotovoltaiche, devono essere abbastanza lontane le une dalle altre da far filtrare. La logica per tutti i materiali è lasciar passare almeno l'80% della radiazione luminosa disponibile. Senta, si sta lavorando molto su dei film fotovoltaici trasparenti o semitrasparenti. È possibile che da questa direzione di ricerca vengano fuori delle soluzioni interessanti che magari fanno passare la tipologia di luce, cioè le radiazioni più utili per la pianta, e trasformano in energia il resto? Ma guardi, al momento si tratta ancora di prototipi. In molti casi questi materiali sono effettivamente semitrasparenti, ma hanno anche delle colorazioni che possono non essere gradite alle colture. Le faccio l'esempio di un materiale amorfo di colore rosso, è semitrasparente, ma ad esempio sotto colore rosso, se andiamo a filtrare questa radiazione rossa, la lattuga trevigiana, per esempio, che è naturalmente rossa, non prende colore o ne prende molto meno. Quindi è sicuramente un'opportunità per il futuro, bisogna ancora lavorare un po' su questo tipo di materiali. Grazie Giovanni Minuto. Grazie a lei. È tutto, a domani.